Siano lodati Gesù e Maria. Come tutti sappiamo, fratelli e sorelle carissimi, oggi siamo qui perché Riccardo e Luca stanno per ricevere l'importantissimo sacramento della cresima o confermazione. Il Vangelo di oggi si presta molto bene a entrare in questo sacramento, di cui con voi vorrei un pochino parlare, anche ricordando a Luca e Riccardo le cose che durante il tempo della formazione gli sono già state dette e ieri un pochino abbiamo ripreso durante la conversazione che abbiamo avuto prima delle confessioni in preparazione alla cresima. Che cos'è questo sacramento? Si chiama cresima o confermazione. Perché? Partiamo dal termine confermazione. La prima cosa che faremo, finita l'omelia, io chiederò a Riccardo e a Luca, e risponderanno soltanto loro, il resto tutti zitti, ci uniamo interiormente alla fine dicendo tutti insieme Amen. Ti chiederò di rinnovare le promesse battesimali, cioè quelle cose che tanti anni fa papà e mamma e padrino e madrina, quando li hanno portati a battezzare, hanno fatto a nome loro. Cioè, essere cristiani è un dono che hanno ricevuto, senza chiederlo, così come la vita. Oggi dicono, quel dono mi piace, io voglio vivere da cristiano, voglio essere cristiano. E in che cosa consistono le promesse battesimali? Adesso faccio una sintesi, poi la approfondiamo. E gli chiederò se rinunciano a Satana, perché Satana esiste nel Vangelo, oggi Gesù ne parla ampiamente, a tutte le sue opere, e vedremo quali sono, e a tutte le sue seduzioni. Sapete che con la cresima, penso che lo ricordiate tutti quanti dal catechismo, che cosa succede con la cresima? Che cosa diventiamo con la cresima? Chi sa rispondere a questa domanda? C'è proprio un'espressione tipica. Cosa diventiamo con la cresima? Sento qualche bisbiglio. Soldati di Cristo. Soldati. Quindi che significa? Significa che la Chiesa è un esercito. Ci stanno i soldati e ci stanno gli ufficiali. Un parroco è un ufficiale basso, è un caporale. Poi ci stanno i vescovi che sono capitani, ci stanno i cardinali che sono colonnelli e ci sta il Papa che è il generale. Sto giocando un po', ma più o meno è così, d'accordo? Ma noi non siamo pacifici, ma Gesù non è il principe della pace, contro chi stiamo in guerra noi? Che soldati dobbiamo fare? Noi siamo pacifici, noi amiamo pure nemici cristiani, ma anche contro chi siamo in guerra noi? Siamo in guerra o non siamo in guerra? Noi siamo in guerra e come? Contro Satana, le sue opere e le sue seduzioni, ne parleremo tra poco. Dopodiché gli chiederò di professare la santa fede divina e cattolica, se credono nel Padre, nel Figlio, nello Spirito Santo, che oggi viene fuso su di loro, ecco il termine cresima, con una particolare forza e con un particolare sigillo, e se credono nella Chiesa Cattolica, la Comunione dei Santi, le principali verità di fede. Chiaramente devono rispondere credo, se no la messa continua, ma la cresima non può essere amministrata, quindi non li posso far venire. Ecco. Dopodiché invocherò lo Spirito Santo su di loro e verranno, e io imprimendogli, ieri l'ho spiegato, con il dito indice della mano destra un segno con il sacro crisma sulla fronte, gli dirò: ricevi il sigillo dello Spirito Santo, cioè quello che tu hai ricevuto nel battesimo oggi viene definitivamente sigillato. E gli ho spiegato ieri, ragazzi, che questo segno lascia nella nostra anima un carattere indelebile che ce la porteremo per tutta l'eternità, anche se Dio non voglia, e vi auguro evidentemente che non capiti a nessuno di voi presenti, si dovesse andare a fare una brutta fine dopo la morte, perché dopo la morte purtroppo si può fare una brutta fine. Gesù nel Vangelo ha detto che chi opera scandali va a finire dritto dritto nella Geenna. La Geenna, sapete che è un'immagine che Gesù usa per designare l'inferno. La Geenna era concretamente, sapete cosa? La discarica di Gerusalemme. A Gerusalemme sud c'era un fuoco sempre acceso, non è come dove venivano bruciati i rifiuti. Quella era la Geenna, a significare le fiamme inestinguibili dell'inferno. Io non so quanto di voi, sentendo queste cose, stanno pensando: che parroco strano questo, ma mica crederà sul serio ancora queste cose? Qualcuno mi ha pure detto che è un po' istruito questo parroco, mica crederà sul serio ancora a queste scemenze. Io ci credo, e come, a queste cose, perché non sono scemenze, per quello che Gesù dice nel Vangelo non sono mai scemenze. E dopo gli darò la pace a nome del Vescovo che oggi rappresento, il Vescovo mi ha dato con decreto la possibilità di amministrare le cresime a questi ragazzi, altrimenti non avrei potuto farlo. La pace sia con te e il saluto di Gesù risorto è il segno di questa perfetta appartenenza alla Chiesa che oggi attraverso la cresima realizzano pienamente. Allora, andiamo un pochino a vedere, adesso farò un pochino di esempi di cose che vi racconterò per farvi capire bene ai piccoli e ai grandi, d'accordo? Perché io ormai sono quasi 20 anni che sono sacerdote, sono in contatto con un sacco di gente, anche giovanissimi, anche adolescenti, mi scrivono su Instagram, mi scrivono mail, mi scrivono un sacco di cose, quindi farò adesso un pochino di esempi reali però, quindi di situazioni di vita che ho conosciuto, che diciamo, in che senso dobbiamo combattere contro il diavolo? Quali guerre dovrete combattere, Riccardo e Luca? Allora, il diavolo fa due cose. Innanzitutto esiste, ecco perché bisogna, ed è il nostro nemico, l'unico nemico. Non abbiamo altri nemici al di fuori del diavolo. Il diavolo ci fa del male attraverso le sue opere e attraverso le sue seduzioni. Ho spiegato ieri, ragazzi, quali sono le opere di Satana? Che nome hanno le opere di Satana? Satana compie alcune opere. Qual è il nome delle opere di Satana? Che noi possiamo compiere, purtroppo, tentati da lui e in obbedienza, ahimè, a lui. Quali sono? Sento qualche bambino che sussurra i peccati. I peccati sono opere di Satana. Le bestemmie sono opere di Satana. Se voi aprite i libri dei grandi esorcisti, tipo Padre Amort, vi raccontano che quando uno è proprio indemoniato di brutto, dice una montagna di bestemmie, perché la bestemmia è proprio l'atto satanico per antonomasia. Chi bestemmia, anche se non vuole, anche se non ci pensa, di fatto presta la bocca al demonio. Nel libro dell'Apocalisse si dice che alla bestia fu data una bocca per proferire le bestemmie. Chi non mette Dio al primo posto e si assoggetta agli idoli, primo comandamento, compie opere di Satana. Il cardinale Petrocchi, per farci capire quali sono gli idoli principali, lo dico anche per i grandi, ci diceva le tre S. Sapete quali sono le tre S, no? SSS. Una volta c'erano le SS, che erano pericolose. Per noi cristiani sono più pericolose le SSS, cioè sesso, soldi e successo. Sono i grandi idoli del mondo. Oppure, se preferite un altro slogan, le tre P. PPP. Piacere, potere e possedere. Questi sono gli idoli a cui si prostra mezzo mondo, forse anche di più. Noi no, però, Noi no, noi no. Dicevo uno slogan di una vecchia, vi ricordate, Raimondo Vianello, noi no. Noi no, questa è roba per i non credenti, non per noi. Non andare a messa la domenica è un'opera di Dio o un'opera di Satana? È un'opera di Satana. L'impurità che oggi dilaga in maniera impressionante, che molti pensano che non sia nemmeno un peccato, è un'opera di Satana. Potremmo continuare. Queste sono le opere. Quali tentazioni potreste trovarvi? Adesso vi racconto, abbiamo qualche minuto, due o tre storie. Storia di un adolescente di 13 anni. Quanti anni avete voi? 13 o 14? Hai visto? Vi racconto la storia di questo adolescente, rapidissimo. Questo adolescente, come tutti gli adolescenti tra 13 e 14 anni, ha un passaggio tra la terza media e il primo anno di superiore. Quindi ha gli amici adesso della terza media, non ancora quelli nuovi. Che cosa succede? A un certo punto questi amici, ve la faccio breve, si cominciano a fare le canne. Tutti. E l'unico che non sapeva neanche questa cosa, non si era mai fatto una canna, era questo adolescente che io conosco, che ho conosciuto. Un bel giorno, come prova di maturità, questi prendono questo adolescente e se lo portano con loro, dice, portiamoci pure lui, così glielo diciamo. E gli dicono, senti un po', tirano fuori tutte quante le cose, il cucchiaino con il fumo, l'accendino, tutte le cose che fanno, e cominciano a preparare una canna, che è una cosa che fa sentire tanto grandi a 13-14 anni. E dopodiché gli dicono a questo qui, senti, ma tu fumi con noi, giusto? Questo che era non era proprio santo, ma era un ragazzino, insomma, un po' così, dice, ma insomma, veramente a 13 anni già le canne, già sarebbe un po' troppo le sigarette, ma le canne mi sembra un po' troppo. Sapete la fine che ha fatto questo ragazzo? Capite, ragazzi, che cosa succede? È rimasto da solo, senza amici. Perché dopo che ha fatto questa cosa, tu sei morto, non esisti più. Non è questo forse un combattimento contro il diavolo? Non era una seduzione? Che ci vuole? Basta che te fai la canna e va tutto bene. Capite? Questo è un esempio. Ne volete sentire un altro? Mi contatta un giovanotto, mi fa, un esempio un po' più contemporaneo. I gruppi di WhatsApp, conoscete, avete mai sentito parlare di questi gruppi di WhatsApp, questa cosa strana contemporanea, le chat degli amici, delle cose? Fra Don Leonardo, io sto dentro una chat di WhatsApp, sto un po' in difficoltà perché diversi amici, sapete cosa postano dentro la chat di WhatsApp? Perdonate, adesso parlo un po' in codice perché c'è qualche piccolino, dei video che non sono proprio dei video di cose sante, ma avete capito, piccoli e grandi, quindi sono dei video, chiamiamoli osceni, che forse i più piccoli non capiscono bene. Che devo fare? Secondo voi vedersi un video osceno è una cosa che non fa niente o è una cosa che distrugge completamente? Non è soltanto un peccato mortale gravissimo, ma è una cosa, e questo lo sanno anche gli psicologi, che distrugge completamente il cervello e la psiche, distorce l'idea santa che si deve avere di un rapporto tra un uomo e una donna, e lascia delle immagini che dentro il cervello rimangono impresse per anni. Io ho conosciuto persone che sono state schiave da giovani della pornografia, che all'età venerabile mia o anche oltre mi hanno raccontato. Io ancora mi ricordo perfettamente quelle brutte immagini che attraverso le cattive compagnie che mi coinvolsero in questo ho visto 50 anni fa e me le ricordo come se le avessi viste un minuto fa. Capite? Questi sono soltanto alcuni esempi, adesso l'omelia deve finire, però capite che stiamo in guerra, perché opporsi a queste cose, dice, che faccio Don Leonardo, esco dalla chat di WhatsApp? Sai che succede se esci dalla chat di WhatsApp? Che succede? Mamma mia, oh, che soggetto che c'ha paura di invidio, ah, sei morto. Questi sono esempi macroscopici, poi ci sono quelli un pochino più piccoli. Allora capite che non è uno scherzo il combattimento spirituale, perché lo dobbiamo affrontare e ci vuole la forza. Ecco perché si riceve lo Spirito Santo attraverso la fortezza. Diventare soldati di Cristo, che vuol dire, significa da oggi in poi, primo, accettano di combattere questa battaglia e chiedono a Dio l'aiuto, e secondo, accettano di testimoniare la fede anche pagando di persone, perché un cristiano degno di questo nome dice, come Santa Maria Goretti al suo assalitore Alessandro Sesseneri, la sapete la storia di Santa Maria Goretti, l'ultima che vi racconto, patrona della nostra diocesi, io sono nata a Latina, è patrona dell'Agro Pontino. Santa Maria Goretti è morta con 14 coltellate, date con un punteruolo, perché a un certo Alessandro Serenelli, lei aveva 12 anni, lui ce n'aveva, non mi ricordo se 16 o 18, voleva stare con lui come si sta dopo il matrimonio. Gli si è avvicinato e Santa Maria Goretti ha detto, guarda, io questo peccato non lo farò mai, mi puoi anche ammazzare, e io questa cosa non la faccio. Lui ha preso un punteruolo e l'ha ammazzata. E mentre la stava ammazzando, lei gli diceva, Alessandro, che fai? Guarda che vai all'inferno, continua pure, io questa cosa non la farò mai. E mentre gli dava le coltellate, lei non si parava le coltellate, questo l'ha raccontato Alessandro Serenelli dopo, perché dopo si è pentito, era presente quando Pio XII ha dichiarato santa Santa Maria Goretti a fianco alla madre, dopo essere stato perdonato da Santa Maria Goretti prima che morisse. Ha detto, quella ragazzina anziché pararsi le coltellate si teneva giù la gonna per non farsi vedere nuda. Capite chi è un cristiano? Questi sono i soldati di Cristo. Buon combattimento, ragazzi. Oggi il Signore vi dà la forza, ma il combattimento ognuno lo deve combattere in prima persona. Io ho il mio, voi avrete il vostro, e tutti noi qui presenti abbiamo le nostre buone battaglie da combattere in nome della fede, ma se viviamo da figli di Dio, le battaglie contro il diavolo nel nome di Gesù si vincono tutte. Le perde soltanto chi si stacca da Gesù, si stacca dalla sua grazia e diventa uno zimbello nelle mani del diavolo. Vi auguro che questo non mi succeda mai, né a voi, né a nessuno. Siano lodati Gesù.